un'esclusiva Web Radio Luzzi. Un duello epico tra due pesi massimi della politica calabrese. Direttamente dai nostri studi, Giuseppe Chiaravallotti e Mario Oliverio. A dirigere il tutto, Maurizio Costanzo. Bene, cari amici, benvenuti a questa nuova puntata. Capate, abbiamo qui alla mia destra Chiaravallotti e alla mia buonasera Chiaravallotti e alla mia sinistra il attuale presidente Mario Oliverio. Sì, la provincia, buonasera. Colpa di Chiaravallotti che vogliono cancellare la provincia. Io non lo capisco perché è peggiorato. Con calma, uno alla volta, non vi affollate. Ricordiamo la camicia con i baffi, quindi ecco, adesso secondo scaletta tocca a Chiaravallotti parlare, prego signor Giuseppe. Intanto voglio dire a Rodevierio qua, mister Pallapalla. Non offendiamo. E tu non offendi me, offendi tutti gli abitanti di San Giovanni. Siamo in un paese civile, uno alla volta, per cortesia. Venne posto un microfono in Africa tu e pupa ci manchi tu. Vieni a tu, ti come. Calmi. E senti, a posto che io ho fatto il presidente regionale. Un po' di rispetto, che tegni 840 anni da 920 in politica. Parla politica, hai fatto un presidente regionale. Vai ferma loco! Carico 2 euro per i consati. C'era gente che aggrediranno. Ha fatto decine che posso fare. Ha fregato 105 milioni di euro per un collettone. E che ha fatto i gol. Un collettone serve alla comunità. E ho fatto per il po'. Fatta da folle. Ma sei mai fregato. Io volevo dire che quelli che mi accusano che le persone che sono state assunte dalla polizia provinciale sono tutti di San Giovanni. Ebbene, sono di San Giovanni, ma è un caso se credi San Giovanni è più spirte, su più spirte mia, non a caso. Adesso non facciamo discriminazione del tipo razziale. San Giovanni, chi me rappresenta? Palla con ziaccio. Ah, un paese tutto da provincia di Reggio Calabria, bello. Capo un barramo di infiltrazione mafiosa. Infatti per spalla una buca state in ricuozze. Che ne c'è vita? Arrivi a San Giovanni, un paese che parla con il codice. Fessiato, intanto devo dire e voglio ringraziare che ho sistemato tutti i cristiani di San Giovanni. Tu i paesani tuoi l'ha sistemato, ho stravinto. Grazie Luca. I paesani miei sono tutti i calabresi perché sono stato presidente regionale. Queste cose, già fatto favore a Regione Calabria. Fatto. Calma. Vedi che a mia tra i miei c'è pure la seconda elementare che era a posto di fatica. Sì, bravo, andate in, mi dice quasi con la ventata. E gli hai fatto diventare i miei comunisti, vice sindaci. Sono andate in, comunisti. E invece hai fatto bene tuo paese mio, e tanto è vero che paese mio è su mio e nel mio caso con meglio un po' beneficio arredato io ho postato la regina in Serie A, che cazzo mare sapere tutto c'ha postato la Savana, la Savana è giunta in promozione, è pure scesa a piazza quello qua un senso dai che stiamo in mezzo alla gente, non avevo bisogno di sapere bene e poi che ti ricorda lo senso, io ne capisco, ma non bisogna resi ma... E tu mi parli con un beta, verna, ma sono bene mamma, ma mi piace chiamassi da Crigal che mi facesse tanti cresca, cioè tu una puoi rucuazzo, ma comunque ricordiamo che questo qui come gentile ha fatto assumere i giovani, i giovani li ha fatto assumere, e chi ha preso tra i suoi giovani? Suo figlio ha preso tra i suoi giovani, avete di vinni, noi gentili, immagini figlia, ma a parte non c'è di pagare la mazzetta, immagini più fuori sotto la quaglia, diciamo, ma raccomando a parte con ne manca figlia, ma come? Va, babbo, babbo, ma io sono stato regionale, quindi hai assunto a mezzo mondo, i catanzari, i reggi, i cuori. Oh, Napolesi provincia, ma perché è Napolesi provincia? Noi abbiamo avuto la grande invenzione a Cosenza di portare la polizia provinciale, perché, come potete vedere, non ci bastano solo i carabinieri, non ci bastano solo la guardia di finanza, le guardie zoologiche, la guardia forestale, noi dobbiamo fare la provincia, la polizia provinciale, perché... ci piace spendere i soldi, perché noi spendiamo i soldi per il bene della comunità e più trovano possibile perché i cani votano ovviamente. E se ti ha comprato un Porsche da Frosper che ha costato 2.500 euro a caccia di ispettale per comprare i Frosper, vero come a si spiega? A chi serve l'ispettale della provincia? A chi serve l'ispettale della provincia? A chi serve la provincia? Oh, non scherziamo, sono i bisogni reali della gente. Maurizio! Ma Maurizio Costanza è fatto un rompio, cioè, quando non costa. Scusate, ma io sono qua per vedere se la cosa funziona. Ma guarda Filippo, facci scrivere una cosa. Faccio niente. Ecco. Ma non domanda rimangono un microfono se vecchio un dordonotto ingatrammato, io lo sapevo. Che? Comunque. Che? Un microfono muove un po'. Poi tu una mazzetta dei giornalisti, sai che tu paghi mazzetta dei giornalisti. Senti, tu hai pagato un giornalista di bisogno. Un bacio, ti sputo un bacio. Un giornalista di bisogno. Che di cose tu PDL la paga per sempre buono. Io non lo saccio questa cosa che gli amici della provincia di Cosenza. No, ma e poi la provincia di Cosenza è la più grande della regione. Ed è grande come una regione. Quindi, ma la posso solo spoliare. Ma infatti io me la frego, cioè, tu chiudi la provincia, me la frego tutta io, no? E incomincio a fare un padrone che lei poi vince un'altra volta e diventa un'altra volta presidente regionale. Che sa gioventù i cazzo con scopellito, capo giovani, cazzo. Scopellito che sa facere la cosa, moglie cosa, amorosso facere la moglie, ma sai. Hanno cacciato fuori. Comunque, io voglio parlare. Ma non faccio con me il girarca. Girati come ti pare piacere. Gira la ruota. Alzamo, cavi i miei tecnici, hai sparito Maurizio Costanza, l'ha piatto nel bar. Sei sputato un microfono. T'ha sentito e si è neghiuto, perché ti devi vergognare. Ma vergognate tu. Prova, spiegami con i capelli. Ma tu non tieni capelli, Ma io mi vanto di... Ma tu non tieni capelli. Il mondiale come miglior sosia di Kojak in tutto il mondo. Ma quello Kojak... Io Mario Oliverio, presidente della provincia di Cosenza. Ma quello Kojak, Fojak e Flocker, che sta con danno qua. Guarda tu, sai che sta ammucando lui, che gira volta se ha superato e poi c'è un nonno che c'ha quando io ho avviato i candidati da superstar a Cosenza Sempare e sono stato io Mario Oliver. Senta che perché ieri tra Raggelmina che grani neutrino, quindi state calmo. No, è finito, beva, fa crepare. Oh, tanto hai fatto così, non puoi un ombreacone che ti portano pure la bella. Un bello pregogno all'età tua, ma vai nel tuo borretino, la fregata abbastanza bella. Sogno giovane Vengio, guarda che stanno ammucando. Sono un giovane Vengio, palla, perché io divento presente regionale, ma parlo di coglione, insomma. Grazie, non lo saggio. Comunque voglio dire una cosa sola. Regionale, come regionale. Ma per piacere, ecco, bravo, che so. te si cacate, barbare. Ma il nipote, ma che bello con me. Tanto cacate. Ma lui sarà il mio erede. Forza Volpe! Pinchi tu caro conte, la sua succella, by night. Maga, di chi che c'è il ciupa! Te chiamo Mastro, la microfono alla capa, però mi sputti in mano e mi conzi i capelli. Po! E punto mancio. Sì, sì, ma tu come che ti finisci? Una a una, parla al centro. Una a una, capito. Parla a palla. Capito, babbo. Comunque. Passo tu. Comunque io volevo leggere l'ultimo messaggio. Scusate, sentirò, sono il parrucchiere di Chiaravalloti, ha bisogno di una ripresa, vedo che. Sì, ma non è che capelli stanno soffrendo. Ma non è che potremmo sì, non è che potremmo fare una frizione, non è che sogniamo che ne mattava uno senza frizione. Era una macchina senza cucina, senza una botta, senza. Ma che cazzo qua? La picciaia! Regionale! Ma vedo che cucca di ma da vuole vicino a rende. Usaccio, ma rende rende. E rende regionale, un nesso giubun. Allora rende, abbiamo fatto noi di sinistra. Lo sviluppo a Cosenza, la provincia di Cosenza è la provincia più modernizzata d'Italia, del mondo e d'Europa. E la provincia di Reggio Calabria, Vibo Valenza, Catanzaro, soprattutto Catanzaro. Ma da posso dire una cosa. Da posso dire una cosa. Regionale! Ma ti ha detto la tutta ragione! Regionale! Sono tornato! Vogliamo dare una calmata a questi anime infuocati! Stiamoci calmi! Ma prendiamo un cittadino! Vieni cittadino, vieni qua! Cittadino, vedete! Che io vai a rubare! Guarda la faccia! Vai a rubare! Guarda la faccia a me o a Idro! Ma chi lo guarda? No, io guardo proprio a me stesso, io guardo proprio a me. A me stesso. Mamma fa ancora protonato. Ma che cazzo mi chiamate? Quando sono dicendate a chi si? Che cambiamento c'è che vota a me stesso? Babbo. Ma nel senso che vota se stesso in quanto è rappresentato bene da qualcuno. Non si capì. C'è stato uno svenimento in diretto, un attimo. Chiamo sanitario del pronto soccorso. Aspetta. No, ma signore pigliato. E facciamo la to. Scusate, mi è arrivata la telefonata. Ah, no. Scusate. Pronto? Come è stato lei? Diciamo. E lo sai che dopo il momento primario lo aspettavo l'annunziato. Ah? Te ne ha quindi lamentato. Non ero problema, c'è anzi a camo stesso. Tanto che te fa? Basta che avere l'esperienza di carrozzino lo può fare prima di chirurgia, non ci sono problemi. Babbo, che te la faccia la raccomandazione? Babbo, ciao. Senti, hai ragione, sì. Tieni ragione, comunque. Un senti, chi se non ha detto stampi la legione? Avandatin. Ma scusate, qui non possiamo fare tutto questo, sembrava un dibattito politico che stiamo degenerando. Ma niente, non è che te pensi che siamo la stanza. Ma io volevo dire ma che questa pubblicità della mala politica dobbiamo smettere, il paese deve crescere, voi. Ma noi stiamo crescendo il paese! Stiamo crescendo il paese! Siamo al paese, che quando sono nato che ancora c'è. Ma figli cresciuto al paese, a San Giovanni in Bronzo. Bello paese, cure cuz! Avete un paese che hanno un codice fiscale. Ma scusa, il telefono che ti sta sorrendo una suoneria che tu ne rigi. Mare cascavalli, va. Ancora! Beh, io direi che possiamo anche chiudere qua. Linea a voi, regia. La regia che di Reggio, regione, vogliamo smettere questa regione, questa regione che è una regione, forza regge, forza cos'è, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge, forza regge